noi, a noi, quelli che traviste, quelli che traviste, il fucecchio. Fucecchio, volete dargli a me? Io vi ringrazio. No, no, no, no, un momento. Sento se vecchio. Peggio per te, peggio per te. Sento vecchio, che vuole stare. Mi sento vecchio, che Pellina!